Friuli nel mondo. Pescatori di Marano. 28esima trasmissione dedicata agli emigrati. Vigilia della festa di San Vito a Marano Lagunare. Nel piccolo porto tutte le arti, attrezzi per la pesca sono scomparse, come esige una severa ordinanza del comune. Soli i motopescherecci rientrati dal largo che innalzano il gran pavese mentre i pescatori affollano le osterie. Nessuno parla delle serraglie in cui è suddivisa la laguna agli effetti della pesca o delle stagioni per esercitarla. Né di togne, ami, di saccaleve, reti, di cogoli per la cattura dei bisati, di gransi, di cape, di masanette pescati all'aperto, di volpine, di cefali, di orate allevati nelle valli. Tuttavia, mentre i tavoli s'accendono le partite a briscola e a tresette, c'è chi illustra la ricorrenza nella colorita parlata locale. Che San Vio è un buon protettore per le nostre donne. E legati molto a questo, perché sa, San Vio manda un buon mario, poi che abbiamo San Modesto e le dice mandemolo presto, e Santa Crescenza non stemi la salsenza, quindi vedranno e non che ne resta senz'altro. E che pensare, no, che il nostro paese è abbastanza frequentato insomma da turisti, no? E in modo particolare le donne, specie nel 15 di giugno che ricorre San Vio. Poi si dice, no, che San Vio è il meglio santo che ha Dio, quindi gli altri maranesi siamo più che mai affezionati a questo santo, e guai chi che ne lo tocca. Capirà, San Vio, so, in paradiso l'occupa il primo posto per noi. Bandita ogni parolaccia, dalla quale semmai esula ogni intenzione blasfema. Dice infatti una quartina maranese. Se non tiremo moccoli, questo non vuol dire niente. Non siamo buona gente, se la pesca che non va. Punta avanzata della Serenissima nel basso Friuli, Marano conserva uno spirito sempre vivo di venezianità. Noi altri qua, no, che siamo friulani, bensì perché siamo sotto il Friuli, no, sotto Udine, la provincia. Ma però, se ricordi ben che noi altri non che siamo per niente friulani, abbiamo un dialetto tutto nostro. E a sua volta, che è un dito, che dice, disegne cani ma non furlani, perché dei furlani non che ne volemo sapere. E dire che ai friulani del retroterra, portato ogni mattina dai maranesi, arriva il pesce fresco con i più rapidi mezzi. Una volta erano le biciclette su cui persino le donne percorrevano anche 200 km giornalieri. Come con rapidi mezzi raggiunge Trieste e Milano. Un tempo, se mancavano i mezzi logistici, era abbondante la pesca. La pesca oggi, nei 9.000 ettari di laguna, contrapposti ai soli 70 di terra coltivata del comune, si fa sempre più scarsa. Un problema preoccupante, come ci spiega Giuliano Corso, esemplare allevatore di pesci e coltivatore di frutta e di ortaggi. Marano deve cambiare sistema di vita, perché la laguna in questi momenti la si trova già sterile. Ora, nell'esperienza che abbiamo avuto nelle nostre valli di Marano, abbiamo già incominciato a fare una valle per conto del comune di Marano, valle che ha dato già splendidi risultati e ottimi procedimenti per l'avvenire di altri sistemi di valicoltura. Ora, noi in questo momento dobbiamo pensare che andando avanti in questo campo non si può più andare avanti con la vita e naturalmente dobbiamo orizzontarsi in altri sistemi che quello della valicoltura. Valicoltura che non importa grandi spese, ma che domani darà la vita all'intera popolazione, perché con questo sistema di valicoltura e agricoltura domani avremo tanto che la pesca come avremo il campo dell'agricoltura, che si potrà produrre uva, frutta, ortaggi in esuberanza non soltanto che per Marano ma per gli altri mercati interni del nostro Friuli. Fuori dell'osteria, calli, campielli, porto in fermento. Rumori da sabato del villaggio. Sotto una pergola vivida di penduli palloncini colorati, un gruppetto di foresti invoca la stele dall'amor, non facilmente scopribile nel fitto stellato della notte estiva. Thank you. richiamato quasi dalla dolcezza della villotta friulana, un peschereccio accorso alla festa da grado ascolta in prossimità della riva il saluto canoro dei maranesi innamorati del loro paese de sogno. Povero paese, è vero, ma nell'attesa della sua festa che dura 3 giorni, ricco di sentimento e di cortesia.